un grosso vaffanculo a chi non c'è e non è. A chi sta mettendo una parola gli mando un grosso vaffanculo a chi innocente non è. In strada c'è un esercito che agita la nazione, vuole il male imparziale su tutta la generazione. Ci punta un cannone poi senza fare attenzione, bara e spara veleno se ti trova con 4 grammi e mette in prigione. Magari la comprensione è l'unica azione che vuole davvero è cambiarti i programmi. Chi li comanda pipa con che scopa trans, oppure raccomanda zoccole che fanno avance. Vorrebbero i fans, sì ma sai come funziona, propongono ricatti molto più di corona. E quelli che leggi votano pure altri seggi, camuffano i tuoi conteggi, chiedono omaggi come i dei. E se non primeggi litigi prendi gli ostraggi, noi siamo come gli ostaggi, fanno le stragi su noi. Predicano bene razzolani insieme al vizio, inoltre come dei mafiosi stanno a chiederti il piso. E anche se mi cazzo io non cado nel complotto, non c'è non mi caricato come ha fatto Marrazzo. Chi sta mentendo una parola gli mando un grosso vaffanculo a chi innocente non è. A chi sta comando e sta rubando nel mondo un grosso vaffanculo a chi innocente non è. A chi sta mentendo una parola gli mando un grosso vaffanculo a chi innocente non è. A chi sta uccidendo e prove sta nascondendo un grosso vaffanculo a chi innocente non è. Vorrei vibrazioni positive come dice Marley, mentre questo mondo gira in fretta come un Harley. Ci serve il cervello, non tanto il tuo manganello, nemmeno già che viene di metallo come il di Stanley. Vorrei giustizia ma con la giusta sentenza, chi sentenzia da condanne soltanto a chi fa le canne. Provo tristezza per chi fa il pupo di pezza, vorrei pace e certezza, più sicurezza per chi è in panne. E ancora eleggi chi fa legge a suo favore, qua non c'è la par condicio nell'ufficio del rettore. E chi non ha cultura cade nella dittatura, l'ignorante sopraffatto, il presidente soddisfatto. Nell'istante in cui mi sfatto l'ha disfatto con cura, ma il pensiero è paura per chi brama chiusura. Ma se vuoi dare lezioni spezzando addosso i bastoni, allora vaffanculo e stai lontano da me. Chi autorizza le ronde utilizza le scorribande, compare ti assicuro controllano pure te. Chi sta mentendo una parola gli mando un grosso vaffanculo.